Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, volevamo aprire questo programma, questa puntata di Palla Spicchi con una canzone che faremo sentire per festeggiare il compleanno del basket, però la vita sa essere veramente bastarda quando ci si mette e allora voglio farvi sentire la voce di un altro signore, di un altro grande della nostra pallacanestro. Pino Brumatti, traspare evidente la tensione per questa gara che vuol dire molto sia in termini di ricordi per molti dei giocatori della Bacher, sia soprattutto direi in termini di classifica adesso. Beh, noi siamo venuti qui nella tana della prima in classifica cercando di far bene, siamo un po' arrabbiati anche dopo la partita che abbiamo visto per televisione, cercheremo di fare la nostra bella figura, la bella figura che vuol dire cercare di vincere questa partita. So che sembra assurdo dirlo così, però io sono convinto che la nostra squadra può fare molto bene. Non è cronaca, è soltanto un effetto sonoro. La vita sa essere bastarda perché alle 12.49 le agenzie hanno battuto la notizia della improvvisa scomparsa di un grande del nostro basket, Pino Brumatti. Io saluto Coach Dan Peterson, sempre con noi al venerdì. Ciao Coach. Ciao Carlo, amici sportivi, buongiorno a tutti. Luca Chiabotti, prima firma del basket sulla Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Ciao a tutti. Coach, Pino Brumatti, 62 anni, 102 partite, 507 punti in nazionale, era il premier del Simmental, se posso fare questo paragone. Assolutamente sì, poi io ho allenato contro lui, prima con Milano che era Innocente ai tempi per 2 anni, poi Cinzano e per un paio di anni, poi è andato a Torino nel 77 e poi anche contro lui lì e poi è andato a Reggio Emilia, quindi non nato sempre contro, però come ho detto anche altre persone, il vero campione olimpiade con la nazionale ha detto più di 100 partite, quando 100 partite era come 200 oggi, che molto meno partite ai tempi, quindi molte partite nazionali, scudetti e coppe con la Simmental Milano del mitico Cesare Rubini, quindi uno che, e poi come sa Luca benissimo, che uno che era amato da tutti, cioè compagni, avversari, tifosi di casa e tifosi fuori, aveva una grande popolarità come personaggio, una grande persona, grande sorriso, cioè grande carisma, è l'unica parola che riesco a pescare in questo momento, e ovviamente grande tiratore, stilisticamente il tiro era perfetto, sapeva giocare uno contro uno. Uno dei più grandi nel palleggio arresto tiro, sì, un campione carismatico. Il professore del palleggio arresto e tiro, Pino Brumatti. Assolutamente, assolutamente. Questa notizia, Luca, della morte di Brumatti ci ha colpito come un pugno questa mattina, no? Sì, perché non c'erano purtroppo, cioè per fortuna non c'erano avvisaglie di quello che sarebbe successo e quindi è stato veramente un colpo a sorpresa, sì. Coach, parliamo invece della tua settimana. Com'è andata questa settimana? Ma molto, cioè, una squadra che lavora moltissimo, che c'è allenamenti ovviamente, squadra che con una grande dedizione lavora tutti, professor, cioè, ovviamente qualcuno mi chiede paragone con le squadre del passato, che era anche dei grandissimi lavoratori, Meneghin, D'Antoni, compagnia, McAdoo, eccetera. Questa squadra lavora, diciamo, per la durezza del lavoro in maniera uguale, non c'è un centimetro di differenza, quindi stanno lavorando sodo l'allenamento, stiamo cercando di perfezionare le cose e anche l'arrivo di Lynn Greer, fra l'altro, è un inserimento molto facile perché è stato già innanzitutto in buone condizioni fisiche. Due, aveva giocato all'università, Temple University di Philadelphia, con David Hawkins e a Napoli con Mason Rocha, e quindi già sapevo un po' di cose, quindi non era problema lì, però abbiamo anche lavorato su questo inserimento di Lynn Greer, che ovviamente sarà il primo della panchina domenica, sì, contro Teramo. Ti ha fatto una buona impressione quindi Greer, il suo impatto è stato buono? Buona impressione, infatti sto partendo da casa tra poco per andare a Palalido per la presentazione di Greer alla stampa, non so se ci sarà Luca o qualcuno della Gazzetta, c'è senz'altro. Sì, sono, ci sono. Viene Luca Chiabotti. Luca, invece, la tua impressione dopo queste 3 settimane su Dan Peterson, sulla panchina dell'Olimpia? Beh, l'impressione, a parte la suggestione, è così, ci sono pochi ricordi. Voglio dire, chi la pensa un'operazione nostalgia ha completamente sbagliato direzione. La cosa veramente interessante è vedere, ed era forse il punto interrogativo, l'impatto di questi nuovi giocatori con certa metodologia, con un certo carisma. Io ho assistito tutto a un allenamento completo per delizia più che per oltre che per lavoro, ma soprattutto per piacere, e devo dire che ho rivisto tanti meccanismi e tante situazioni che al di là della tecnica sono quelle che scattavano anche tanti anni fa coi giocatori che ha citato prima Coach. Quindi vuol dire che ci sono delle cose universali e che Coach è ancora un maestro nel saper stimolare le persone e nel loro lavoro, e questo credo che sia la cosa più importante, al di là del fatto che poi tutte le discussioni sulla pallacanestro è cambiata o non è cambiata, quelle poi forse vengono un po' dopo. L'impatto secondo me è stato molto molto bello, molto interessante, ripeto, tutt'altro che un'operazione nostalgia. Sai, io ho fatto l'altro giorno una lunga intervista a Coach Peterson, che andrà in onda su questi schermi, report domani mattina 8:15, domenica mattina seconda puntata sempre 8:15, mi ha raccontato di quel lunedì in cui è tornato ad essere allenatore dell'Olimpia, e gli ho detto: ma non ci hai pensato neanche un secondo? Lui: neanche un secondo. Lui prima di tutto ha sempre detto, ed è stato un errore, di aver smesso troppo presto. Sì. Quindi lui questo fatto di averlo smesso troppo presto, quando aveva ancora molto da dare e da dire nel nostro ambiente, lo ha sempre un po' così. Un'altra cosa è che probabilmente è arrivato troppo tardi questo richiamo, nel senso, ci sono state almeno 4-5 volte nella storia dell'Olimpia degli ultimi anni nelle quali sarebbe stato giusto e ovvio chiedergli di tornare in panchina. Non è stato fatto per vari motivi, è stato fatto dopo 24 anni e ripeto, forse doveva accadere addirittura prima. Sì, questo è sicuro. Stavo leggendo i messaggi. Vorrei salutare e ringraziare Dan per la sua intelligenza e professionalità e umanità. L'Italia deve essere onorata di ospitarla da così tanto tempo. Marco da Crema. Dan, non ti dimenticare di Melli, scrive Luigi da Reggio Emilia. Guarda, hanno ragione di chiedermi questa qui. Un rimprovero che prendo anche con spirito, perché stavo parlando con qualcuno questa mattina che mi era chiesto di me, e ho detto: è mio dovere far lui avere un minutaggio giusto, cioè se riesco a fare almeno 10 minuti a partita, anche di più, ovviamente deve meritare lui di minuti di più, però non si può prendere un prospetto così importante e farlo giocare 6 minuti a partita come sto facendo io in prime 3 partite. Almeno devo aumentare il minutaggio di lui e lavorare con lui in allenamento. Devo dire che in allenamento sta giocando molto bene. Qualche giorno scherzo con tutti dicendo: oh, c'è qualcuno che riesce a marcare meglio o no? Sembra Amari Stada magari qua, quindi cercare di dare un po' di carica a lui, perché veramente sta giocando benissimo. Quindi potenziale ce l'ha, esperienza manca. Che fantasioso Peterson all'Inter, Mourinho all'Olimpia, vabbè. No, Cossi, invece ti volevo chiedere un'altra cosa, che è anche una domanda che mi arriva via SMS, riguarda Gallinari e questo scambio che è sempre più nell'area. Gallinari in cambio più Chandler in cambio di Carmelo Anthony a New York. Ci dispiacerebbe speriamo tutti, però onestamente, se la guardi dal punto di vista di New York, un giocatore come Carmelo Anthony ti cambia la vita. Ma non, guarda, sì e no, ok, molti punti, però come sa Luca benissimo, non è un difensore. Stoudemire è un non difensore. Tu puoi coprire un non difensore in quintetto, non due, e questo è il mio parere. Comunque io spero che riescano a fare. Donnie Walsh è troppo bravo in queste cose qui, che cerca veramente di tenere tutto il giocatore nucleo della squadra. Uno di questi è Danilo, ovviamente. Grazie Coach, buon lavoro. Ciao ragazzi, ciao Luca, ci vediamo dopo. Senz'altro Coach, arrivederci. Sì, l'altro giorno allenamento, bella azione, canestro di mordente in transizione. Wow, Marco Mordente, tu sei come Ray Allen. Sì, ma io ero presente a proprio questa scena di Melli che raccontava prima Coach. il fatto di lui divide ancora titolari e riserve nelle partitelle, sì. E cosa che ormai non si fa quasi più in questi roster allungati, ma questo stimola le riserve, stimola i titolari, perché quando Melli ha fatto 3 tiri, coach ha fermato l'allenamento e ha detto: ragazzi, io mi scuso con Jabber, mi scuso con Hawkins, mi scuso con tutti, ho sbagliato, ho messo il miglior giocatore della squadra con le riserve. E chiaramente questo sembrano battute, stavano vincendo le riserve tipo 11-4, hanno vinto 16-15 titolari alla fine. Tra poco torniamo a parlarne anche e soprattutto con voi, 800-24-0024, numero verde, messaggi 349-238-6666, Luca Chiabotti sta qui con me, traffico. Palla spicchi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you. Non ovviamente Mr. President, ma Mr. Basketball, Marilyn Monroe. Abbiamo scelto lei per cantare l'Happy Birthday al basket, 120 anni, Luca. Che passionaccia. Incredibile, veramente, bellissimo. Senti Luca, parliamo dell'Eurolega. Poi torniamo su discorsi relativi a Peterson, a questa suggestione, a quest'Olimpia che oggi presenta l'Ingrir e non so quando, ma nei prossimi giorni presenterà Benezze. Sì, è ufficiale da ieri che ha lasciato Mosca, per cui il contratto con Milano c'è già, quindi si tratta solo di burocrazia, direi. Poi parliamo di questo duello in prospettiva Siena-Milano, però l'Eurolega siamo partiti col piede sinistro nelle top 16, francamente a Siena senza McCaleb e in un momento di difficoltà non puoi chiedere di vincere sul campo dell'Efes laddove non ha vinto ancora nessuno in Eurolega. Sì, probabilmente sì, anche perché McCaleb era quello che si metteva in proprio quando le cose in attacco ogni tanto si fermavano, come logico fosse in una Siena che ha cambiato tanto quest'anno. Lui si metteva in proprio e creava delle cose, e queste cose non ci sono più. Iari c'è tutt'altro tipo di giocatore, ovviamente è stato a casa sua a New York fino adesso e deve ritrovare ritmo e sperare che poi sia quello giusto per quel tipo di squadra, come potrebbe essere. Sì, ma è stato di fatto riattivato, non faceva nulla da sei mesi, lui si teneva in forma, ma andava in palestra a fare fitness, sì, come noi, ecco. Sì. Ci metterà un po' e Siena non ha molto tempo. Siena ha questa sfortuna che incombe ogni anno, che quando cominciano le top 16 un giocatore chiave si fa male, sì. Non che Lavrinovic non sia importante o Kaukenas non fosse stato importante qualche anno fa, ma questa è la peggiore di tutti sotto proprio il profilo soprattutto dell'attacco, e si vede sicuro. C'è Alberto che ricorda Pino Brumatti, eterno come tutti i veri campioni, non si può non essere d'accordo. Roma invece è in un momento in cui se le tira addosso. Sì, sembra avere il malocchio, sì. Ammesso che uno creda a queste cose, sembra che Roma abbia il malocchio. Può fare qualsiasi cosa, gli va sempre male. E è chiaro che sono quelle situazioni in cui bisognerebbe ribaltare in qualche modo un trend negativo che ormai si è visto proprio ieri, avanti di 5 partite in mano, i giocatori hanno cominciato a sbagliare cose e hanno perso la partita. Poi c'è stato anche il giallo dell'ultima azione dei, sì, secondi mancanti, ma Roma ha perso la partita da sola che aveva stravinto. È chiaro. È proprio la mente che comincia a ragionare, la paura di perdere. È sfiga, ma te la tira addosso, nel senso che c'è una spiegazione scientifica in questo caso. Assolutamente, è la famosa paura di vincere, chiamiamola come vogliamo, che ti paralizza. Guarda, intanto adesso proprio 3 minuti fa è stata battuta l'agenzia secondo cui Roma ovviamente presenterà reclamo per la ripetizione della partita, perché in Eurolega è così, se viene riconosciuto l'errore ci sarebbe la ripetizione della partita, sì. Di fatto quei secondi, quel cronometro non è partito a tempo debito. Non è partito a tempo debito perché la palla che rotola, cioè ormai deve toccare un giocatore per far partire il cronometro, il giocatore che è in campo ovviamente. In Eurolega c'è un regolamento un po' diverso, diciamo che, e qui purtroppo, dico purtroppo, il commissario di campo era Zancanella, che è pure italiano ed è pure il capo degli arbitri italiani, che in Eurolega fa il commissario. Sarebbe bastato che Zancanella, come aveva già fatto Chiari, un altro arbitro italiano anni fa, vista la situazione, avesse detto alt, fermi tutti, si rifà l'ultima azione, adesso non staremo a discutere di queste cose. In Eurolega c'è questa possibilità di farlo, non è stato fatto, adesso vedremo cosa succederà. Di fatto, visto che siamo ai giorni del compleanno, 120 anni del basket, uno degli episodi più storici, più noti del basket, te lo ricordi, no? Certo. Stati Uniti-Russia e quel cronometro e quell'azione che Jones fece rifare tre volte. Non, gli americani non sono molto d'accordo, ma ancora adesso ma la fece rifare tre volte. Fabio da Siena, buongiorno. 800 24 00 24 per intervenire a Palla Spicchi. Buongiorno a tutti e grazie ancora per lo spazio. Volevo fare questo tipo di intervento, ovvero gli acquisti di Siena e Milano, e quindi Achindele, Jaric, dall'altra parte Greer e probabilmente Eze. Perché è inutile, caro Fabio, che ci giriamo intorno. Il domandone del momento è questo: Siena, Milano, adesso è duello ad armi pari? Questo è il domandone. A mio avviso, ecco, in questo momento Milano sta investendo anche in termini monetari probabilmente cifre maggiori e si vede tutto sul campo, a mio avviso. Volevo un vostro commento al riguardo. Glielo faccio fare da Luca Chiabotti. Ma come sempre nel basket le cifre sono misteriose, per cui ognuno dice che spende poco e meno degli altri. In questo caso Milano ha garantito di essere comunque in un budget già previsto. Non lo so se è vero o non sia vero. Comunque il problema di, secondo me, di Siena è che in questo momento, come dicevamo prima, ha uno Jaric da rimettere a posto, a Ayrton che deve ancora dimostrare di aver recuperato, deve fare turnover, e quindi la situazione è un pochino più difficile. Sul fatto che questa lotta Milano-Siena, adesso Milano sia davanti o abbia raggiunto Siena, secondo me è un discorso vano fino a quando Milano non batte Siena una volta. Quando Milano batterà Siena una volta, cominciamo tutte le belle discussioni del bar, è più brava una, è arrivata l'altra. Fino a quando questo non accade, cioè, secondo me c'è filosofia adesso. Adesso è totalmente filosofia, perché si è visto comunque che Milano non è ancora riuscita una volta a battere Siena. Quindi fino a quando non accadrà, tutto quello che si dice appunto è filosofia. Come quest'altro messaggio: l'operazione Peterson è ridicola, io sto con Buchi, potevano prendere a lui Eze e Greer. Beh, questa è la domanda che si farà anche Buchi, no? Arriva Peterson, prendono Eze e Greer. Non si tratta di una persona così, scrive un ascoltatore, però la sensazione è che Peterson abbia cambiato l'anima di Milano, stia cambiando l'anima di Milano, o comunque abbia ridato ai giocatori la voglia di essere vivi sul serio in questo torneo, abbia riportato il sorriso di chi c'è in campo e di chi c'è fuori. Insomma, indubbiamente uno schiaffo positivo c'è stato con l'arrivo di Peterson. Bisogna anche qui, chiaro, Peterson è un personaggio tale e ha un carisma tale che evidentemente i giocatori accettano da lui delle cose che avrebbero portato musi lunghi. Peterson sta riducendo le rotazioni in modo sostanzioso. L'avesse fatto Piero, sarebbe venuto giù il mondo. Con lui ancora ci sono i giocatori tutti belli sorridenti, e questo non è perché sono cattivi con Piero, ma perché Peterson ha una personalità, un carisma che è in queste cose che si nota. Certo, Buchi quest'anno ha avuto molta sfortuna, ha avuto molti infortuni. Quando non ha avuto gli infortuni, con la squadra a posto ha perso una partita, l'ultima, quella che gli è costata il posto, e quindi sono tutti discorsi. Chiaramente Milano ha avuto la sensazione che si stava riproponendo lo stesso discorso degli anni scorsi, cioè le partite veramente importanti questa squadra non le sa affrontare. Vero, vero, vero. E questo è il motivo, perché ha perso con Valencia, e ha perso con Cantù, ha perso e ha perso in quel modo a Siena senza neanche provarci. Lì la società, lì Prodi deve aver detto: aia, siamo tornati al solito vecchio discorso, e quindi al di là delle colpe ha voluto cambiare. Vedremo quando Milano, invece di incontrare, con tutto il rispetto, Cremona, Teramo, come sarà domenica, o la Scavolini in casa, comincerà a giocare a Siena, a Treviso, con questa gente qua, che cosa succederà. Vedremo soprattutto la Coppa Italia. Secondo me la Coppa Italia quest'anno sarà bellissima, proprio perché tutti si aspettano che Dan Peterson con questa squadra arrivi lì e batta Siena, no? Sì. Ecco, vediamo. Sai, in effetti è quello, è quello il... Ma come storicamente nelle ultime stagioni, è quello il primo vero banco di prova stagionale, è quella l'occasione in cui con partite così sanguinarie, perché è dentro fuori, così ravvicinate una dopo l'altra, è lì che capisci davvero qualcosa di quello che c'è nell'anima delle squadre. Certamente, no? Certamente. E negli ultimi anni il modo in cui ha vinto Siena ha dimostrato che, ragazzi, non ce n'è per nessuno, neanche sulla partita secca, figuriamoci in una serie di... E allora ciao. Allora ciao. Ci fermiamo per la borsa, subito dopo torniamo io e Luca Chiabotti, 800 24 00 24, per intervenire. Messaggi 349 238 6666. Caro Gaetano da Luca, me lo ricordo anch'io quel canestro di Forti che decise lo scudetto per Milano e lo scudetto per Livorno. Un altro caso di cronometro birbante. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre vicino a me Luca Chiabotti, Paolo da Treviso in linea. Treviso, per l'appunto, uno dei temi che volevo affrontare con Luca è, insomma, non dico le pagelle, ma le sensazioni dopo la fine del girone d'andata e dopo la che è stato stilato il tabellone di una Coppa Italia più che mai indicatore stagionale, che si giocherà a Torino, e lì cominceremo a capire qualcosa di questa stagione. Paolo, buongiorno. Buongiorno. E allora anticipo magari il tema, perché volevo intervenire su due o tre argomenti molto velocemente. Il primo, sì, il discorso che anche a Treviso ha allenato Bucchi, e sulla vicenda di Milano vedo riflesso un po' anche il trattamento che ha avuto anche all'epoca a Treviso, dove l'impressione che si porta dietro quell'allenatore è quello di essere un po' sopportato, o comunque la seconda scelta. Non è un allenatore, per carità, sarà anche bravo, portò anche Treviso in finale scudetto, sì, ma l'aurea che ha attorno a lui non è mai quella di essere un trascinatore, non riesce a coinvolgere la piazza. Io non voglio gettargli la croce addosso, ma vedo dei paralleli tra la sua avventura di Treviso e quella di Milano. Sì. E quando voi parlate di carisma di Peterson, mi trovate perfettamente d'accordo. Eh sì, questo credo che sia un dato di fatto, no? Credo che sia un dato di fatto. Per quanto riguarda invece Treviso, volevo una vostra impressione su come sta andando a Treviso, come stanno andando le cose, perché l'impressione è che si sia rotto qualcosa nel giocattolo, sì, basket della famiglia Benettone. Dal caso Norbeck Treviso, tutta una serie di tentativi. Guardi, da quella storia è vero, da quella storia di Norbeck, ormai di qualche anno fa, Treviso non è più stata la stessa. E sembra impossibile, sembra incredibile, perché la pallacanestro a Treviso per la famiglia Benetton vuol dire qualcosa, anzi vuol dire moltissimo. Io arrivo a dire che Treviso è stata fin qui la più grande delusione stagionale, Roma compresa. Luca. Sì, se parliamo di squadre di alto livello, perché ovviamente non ci sono... Il rapporto qualità-prezzo, per farla vedere. Sì, assolutamente, assolutamente. Sono quelle che hanno avuto un cammino insufficiente e inspiegabilmente insufficiente, perché appena Treviso raddrizza... Treviso ha fatto una scelta e ha mischiato dei giocatori esperti, ma dei giocatori molto giovani, con i rischi che la cosa comporta, e con un allenatore che però è noto per aver cresciuto generazioni importanti di giocatori. Quindi il rischio era calcolato, poi si è rotto tutto, e quando si rompe tutto a Treviso hai l'impressione che facciano molta fatica a rimettere le cose in piedi, e sembra che l'infortunio di Nicevic, che era un po' il leader dello spogliatoio, era quello che anche come personalità aveva un impatto sulla squadra, soprattutto sui più giovani, abbia creato sbandamento. Adesso è arrivato Skinner e sono molto curioso di vederlo, perché Skinner è stato un giocatore vero nella NBA, nel senso vero in un ruolo di cambio, vero nel ruolo dello spogliatoio, come un po' il quello che insegnava ai giovani che arrivavano com'è la vita, il capo gang. Il capo gang è un giocatore duro, perché è soprattutto un difensore, per cui se ci si aspetta che faccia tanti punti, sbagliato. Sono curioso di vedere il suo impatto proprio mentale, perché la squadra è buona, ha dei margini di miglioramento fantastici, anche se mentre Gentile viene su, Motti e Unas ormai già mi raccontano anche in America gli scout americani che quello che deve essere la grande prima scelta o la seconda o la terza assoluta di un draft già è un po' acqua passata, cioè anche là si sono un po' resi conto che non sta dando quel, pur essendo il miglior realizzatore della squadra, sì, per sì, carità, certo. Per cui è un problema, hai ragione tu, c'è un po' stata la maledizione del caso Lobre che probabilmente ha rotto qualcosa anche di intimo nelle persone. Noi, voglio dire, il signor Gilberto Benetton, oltre a aver fatto tante cose, anche quello che è un vero appassionato, sì, penso sì, che essersi trovato di fronte a una cosa del genere lo abbia veramente veramente ferito. Credo che lui fosse assolutamente ignaro di quello che stesse accadendo e quindi l'ha veramente ferito, e poi anche quello che è successo dopo, perché adesso non voglio difenderlo, è stata una storia brutta, però c'è stato forse un accanimento sul fatto e lui questa cosa lo ha, sì, lo ha un po' insomma, per un appassionato è stato più grave che per un presidente normale. Non c'è dubbio. Senti Luca, visto che siamo ho citato prima l'espressione qualità prezzo, la migliore Cantù o no? Sì, la migliore Cantù. Si conferma Cantù, era migliore l'anno scorso, era migliore anche quest'anno. Cantù è una tradizione di migliore qualità-prezzo, anche se quest'anno ha dovuto spendere un po' di più. E come sì, dice Bruno Arrigoni, perché grande rinnovare saggio. Rinnovare costa più che prendere. Rinnovare costa più che prendere, regola 1 di Arrigoni. Regola 2, non è perché costi di più che sei diventato più forte. Sì, sì. Quindi queste sono le due regole auree che hanno portato Cantù spesso a non rinnovare, perché gli rubavano le squadre le altri, perché lei li lanciava. Quest'anno ha avuto un bel gruppo, l'ha confermato, è costato un po' di più, però come qualità prezzo non c'è dubbio. Chiaramente l'infortunio di Marco Isvili, non sostituito, per scelta evidentemente, ma anche per motivi di budget, ha fatto in modo che questa squadra abbia perso un paio di partite che magari non avrebbe perso. Però non c'è dubbio, diciamo che con due soldi in più, magari, non dico il Greer, non dico Lezze, non dico lo Jaric, ma magari qualcuno che poteva dare una mano in un momento così sarebbe arrivato. La speranza è che Marco Isvili torni per la Coppa Italia, perché io sono convinto che se il come è messo il tabellone, Milano-Cantù, se ci fosse Milano-Cantù in semifinale, come la classifica dice, il pronostico, beh, è un partitone, ma anche per la gente, cioè può essere partitone, davvero la prima vera sfida che risveglia certe cose passate, no? Assolutamente, del basket italiano. Assolutamente. La gente che parte a Milano, la gente che parte a Cantù, ci si trova a Torino e torna a essere un partitone, sì, come è un partitone, è un partitone come climax da anni, perché ci sono dei momenti in cui Cantù gioca veramente una pallacanestro splendida. Ogni tanto si blocca, come è successo la domenica, e lì vabbè, succede a tutti, ripeto, soprattutto se si gioca, con un infortunio pesante, non si ha il roster e il budget per succede a Siena, vuoi che non possa succedere a loro. Continuiamo il nostro giro d'Italia dei canestri, andiamo a Fermo. Daniele, buongiorno. Daniele? Buongiorno. Dica. Allora, una piccola critica, vogliamo parlare di questa Montegranaro, finalmente sta quarta in classifica, voglio sì, dire, con questo roster che è molto corto, però intanto con Pilastrini siamo ancora quarti. E in Coppa Italia non so cosa faremo, forse perderemo subito contro Bologna, però intanto siamo lì. Mica detto, anzi due lirette su Montegranaro io ce le metterei, lirette, non euro, due lirette su Montegranaro ce le metterei. Nemmeno una piccola frase, dicevo, questi stanno quarti, niente, proprio, sì, cioè, Siena, guarda. Sì, Siena, Milano, Siena. Ma ci arriviamo, a parte il fatto che Montegranaro per me non è poi così una sorpresa, lei parla di roster corto, secondo me è un roster di qualità. Lo dicevamo anche all'inizio stagione e poi il giro d'andata ha confermato. Ma a livello di quintetto Montegranaro è una squadra. È una squadra forte. Però ha ragione questo, beh, l'ascoltatore ha sicuramente ragione, però Montegranaro paga evidentemente anche il fatto di essere ovviamente un posto più piccolo, ma soprattutto di non essere una sorpresa, perché l'anno scorso era in Coppa Italia, è arrivata adesso Pillastrini bravissimo, però anche con l'allenatore precedente, con Fabrizio Frates, era arrivata a essere una squadra competitiva, ha fatto i playoff, quindi non c'è più l'effetto sorpresa. Guarda, Montegranaro è considerato ormai una realtà, sta lavorando molto bene anche a livello di società e di management, tant'è vero che ha messo lì una squadra che in partita secca fa paura secondo me a tutti. Il problema in una Coppa Italia è che probabilmente potrebbe avere dei problemi se va avanti, cioè gli auguriamo che possa andare avanti, però sono sempre gli stessi che poi devono giocare a 24 sì. ore di distanza, però no, per carità, Montegranaro ormai è una big. Senti, Varese invece? Varese partita fortissima, batte Siena, ha fatto un avvio di stagione che francamente non era difficile attendersi, poi si è spenta la luce per molto tempo, per sette partite se non ricordo male in serie, e si è riacceso improvvisamente nel derby con Cantù. Continuo a pensare che la classifica per questa squadra sia magnifica. La squadra, quella sì, molto corta, con cui sta lavorando Charlie Recalcati, però anche una squadra intelligente, nel senso di 7-8 giocatori sì, ma tutti di buon livello. Sì, decisamente, ed è un po' il motivo, e anche esperti, quindi è il motivo probabilmente per cui Carlo, che la salunga, anche forse forzato sull'inizio del campionato, sapendo che quelle sono le squadre che devono partire molto bene, perché poi lasciano, si portano intanto dei punti importanti quando le altre non sono ancora pronte. Però anche lì Varese sta avviando un progetto molto difficile, nel senso che la società è nuova, è stata creata in realtà quando la squadra era già stata fatta a settembre, quasi ottobre, e grandi risorse non ne ha. Chiaramente, se il giocatore su cui loro hanno investito di più, Thomas, ha sempre questo problema che non riesce a giocare, Rannico, altro giocatore che ha avuto dei problemi, ha saltato delle partite, Slay, altro che ha cominciato che non era in condizioni, non è che uno può sempre permettersi di aspettarlo. Certamente ci sono stati dei problemi. Anch'io credo che sia una buona stagione comunque. Assolutamente. Comunque ha mostrato che è un giocatore preso dalla 2 che sta migliorando partita dopo partita, questo Goss. Sì. Deve stare attenta, però deve stare molto attenta, deve stare molto attenta, cammina sulla dinamite, adesso non può rinunciare a nessuno di quelli. Esattamente, adesso ha preso un giocatore discreto per coprire questo buco che si apre con Thomas, certo che cammina sul filo, cammina sul filo, lei ha l'indispensabile per mantenere quel tipo di rotta, se comincia a esserci un po' troppi guai fa fatica. Soldi che servono per mangiare tutti i giorni, però se ne perdi qualcuno per strada sei fritto. Esatto, è una società seria che fa le cose bene, quindi non è che non dai soldi ai giocatori perché non li ha, glieli dà, è molto seria, però se deve fare un cosino in più mancano. Palla spicchi. Omar da Bologna, provocazione in chiave azzurra. Ci sono italiani a parte gli NBA migliori di Marconato e Galanda nel ruolo di 4 e 5? Questo è una domanda, più che una provocazione, una domanda assolutamente realistica, secondo me. Tra poco continuiamo a parlare con gli ascoltatori, però adesso Luca gioca come uno contro uno. Sì. Domandine se che poi te la prendi con Franco Piantaneda. Yaric e Skinner, li abbiamo citati prima, Serie A, cimitero degli elefanti o un po' di lustro per il nostro basket con nomi importanti? Un po' di lustro senza pensare che possano cambiare le sorti del campionato, però un po' di lustro, sì, basta buttare sempre un po' di negatività sulle cose che accadono da noi, perché in realtà uno che ha giocato 7 anni nell'NBA, l'altro 12, possono dare delle cose importanti e insegnarci anche delle cose importanti. Peterson dal nano ghiacciato a come si è definito l'altro giorno, un po' allenatore, un po' cheerleader, che gli si sia alzata la pressione. No, è un grande perché lui in questo momento ha il mondo ai suoi piedi, il mondo del basket ai suoi piedi, e le cose che ha detto fino adesso sono state tipo questa, metà cheerleader. Lui può permettersi di dire che molto di quello che ha fatto fino adesso è stato scena, diciamo, nel senso buono del termine, cioè lavorare sulla mente più che e sull'entusiasmo più che sulla tecnica. Poi dice: io uso gli schemi di Buchi, faccio queste cose. Altri allenatori più giovani di lui così non avrebbero mai avuto la stessa autoironia, la stessa semplicità, la stessa umiltà. È stato veramente un grande. Di sicuro ha alzato la pressione a Milano, questo sì. È certo. Blake Griffin, devastante. Mamma mia. Ala dei Clippers, 25 punti e mezzo a partita, 12,8 rimbalzi di media, le prime 40 partite da professionista. È un rookie, come ben sapete, perché l'anno scorso di fatto non ha giocato. È più facile di quanto mi aspettassi. Ha detto dall'alto di queste cifre, ci prende in giro? No, secondo me è uno che sta ancora studiando e vedendo che cosa sta succedendo nella sua nuova vita. È stato fermo un anno per infortunio, probabilmente anche lui aveva il timore di rientrare dopo un anno in un mondo nuovo e di non saper cosa fare. Adesso si sta divertendo e soprattutto la cosa bella, all'esempio dell'altro giorno ha fatto 47 punti. E siccome tutti dicono ancora, vabbè, però è un grande atleta, salta tanto, schiaccia e basta, fa così, lui ha fatto 47 punti, ha fatto una schiacciata, è andato in uno contro uno, tirava dal tabellone, tirava da fuori, andava dentro, poi alla fine ha detto, insomma, no, non è che so solo schiacciare. No, la musica la so suonare. La musica la so suonare, sì, ha un talento, però tutti, anche l'altro giorno lo diceva Mike in un'intervista, Mike D'Antoni, nessuno si aspettava che fosse così. Sicuro. Adesso proveremo a capire se è il giocatore in grado di spostare i titoli, ma questo lo capiremo vivendo. Carmelo Anthony invece verso New York, si diceva prima anche con il coach. Forse New York farebbe un affare, però povero Gallo, eh? Passare da New York a Denver è come passare dalla Ferrari alla bici, o no? Beh, chiaro, nel senso che come location, Denver è più forte. Perché se non avesse avuto questa rottura di scatole della trade di Carmelo avrebbe magari vinto anche delle partite in più, però il fascino e soprattutto è come Milano, no? Se uno fa qualcosa a Milano ha 300 volte il risalto di Montegranaro, che ovviamente ha fatto dei campionati negli ultimi anni qualità prezzo migliore, per cui sì povero Gallo, io ci penso sempre perché anche quando si scrivono queste cose uno fa sempre il tifo per Gallinari, dice no però insomma adesso la squadra sta andando bene, sarebbe un peccato per lui, poi pensi Carmelo Anthony, ha ragione coach, già Stoudemire è difficile da sopportare tra virgolette per i compagni per come difende, ci si mette anche Carmelo, sono guai, però viene fuori una squadra veramente... Sì. Inarrestabile in attacco. In una metà campo hai qualche problema, nell'altra ti saluto perché gli avversari poi non c'è dubbio che in questo momento sia meglio Carmelo. E chiudiamo con gli ascoltatori dopo l'uno contro uno con Luca Chiabotti. Caserta, Giuseppe, buonasera, buongiorno. Buonasera a tutti, salve. Dica. Senta, volevo sapere che ne pensavate dopo il definitivo innesso di Williams, come sta giocando. L'ultima partita sul Treviso ha fatto un 7 su 8 da 2 fantastico. Sì. Se può centrare i playoff, e credo che alla fine Caserta farà anche un gran playoff centrale. Sì. Centrare i playoff di sicuro. Williams è un giocatore molto condizionante, però se è stato preso per giocare in questa maniera, Luca. Sì, assolutamente. Caserta ha pagato in questo inizio disastroso di campionato che ha avuto il fatto che William prima non è arrivato tardi, sì. Poi è arrivato e lui ha dei problemi di peso evidenti, sì. Prima si è dovuto mettere in forma, poi una squadra di tiratori e ha dovuto abituarsi a giocare con lui, quando c'è riuscita, accidenti, si è visto 7 vittorie nelle ultime 10 partite e sicuramente secondo me fare i playoff, e se ci arriva, chiaro, magari si è giocato al fattore campo, però se ci arriva sono guai. Secondo me è la squadra che ha più margine per tornare a dar fastidio. La squadra che se la becchi nei playoff ti dà fastidio a prescindere dal fattore campo. Lorenzo, provincia di Ancona, e poi chiudiamo, abbiamo ancora un minuto. Dica. Salve, io sono un tifoso di Orlando Magic dai tempi di Scott Skiles, che deve 30 assist. Qualche e vi volevo chiedere se Arinas, secondo voi, utilizzato come ottavo uomo di rotazione, possa servire a Orlando anche magari in ottica playoff, e se, come si dice, che Troy Murphy dovrebbe essere tagliato dai New Jersey Nets, se potrebbe servire alla causa per Dwight Howard lì. Sì. È come dire se Cassano può servire al Milan utilizzato spizzichi e bocconi. Esatto, credo che sia la stessa situazione. È chiaro che Orlando ha in quel ruolo un giocatore su cui deve scommettere molto di più che su Arenas, ed è una logica evidente che poi io non sono molto d'accordo sul fatto di prendere grandi talenti magari anche un po' difficili e metterli in panchina sperando che poi diano un apporto. Non ha quasi mai funzionato, se non in squadre con quintetti molto forti, allora certo, che sono con grandi personalità che sono riusciti a metabolizzarlo e a costringerlo a giocare in un dato modo. Questi non ce li ha Orlando, perché Dwight comunque non ce l'ha. Bella domanda. Bella domanda. La risposta a primavera. Esattamente. Luca Chiabotti, grazie. Grazie a tutti. A presto, A presto con Luca Chiabotti. Grazie a Franco Biantani per il lavoro in redazione, Pietro Accorti in regia. Con lo sport ci sentiamo come al solito domani dalle 5 alle 6, poi domenica 4:30 a 7 il calcio, 8:30 a 9 il basket. Vi aspetto.